Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchisi. Questa è Italia in controluce, la seconda edizione quotidiana del programma di Radio 24 che racconta l'Italia. Stiamo lavorando a numerose inchieste, a molti reportage, approfondimenti, interviste. Soprattutto l'edizione delle 13.30 dell'intera prossima settimana sarà dedicata al Festival Trame, letterature contro le mafie, in scena dal 22 al 26 giugno alla Lamezia Terme. Ascolterete su Radio 24 le testimonianze di scrittori, giornalisti, giudici, magistrati, uomini della società civile. Sono le voci di chi è in prima linea contro le cosche a sud come al nord. E come ogni venerdì a quest'ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. 200.000 studenti disabili nell'anno scolastico 2009-2010, 95.000 insegnanti di sostegno, il 10% del corpo docente italiano. Una realtà importante questa in una scuola, quella italiana, che però dovrebbe rivedere e ripensare a questo punto i propri meccanismi di aiuto ai ragazzi disabili. È quanto si legge nel rapporto stilato dall'Associazione 3L, dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Giovanni Agnelli per le edizioni Erickson. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Italia, questo ci tengo a sottolinearlo, è sempre stato dagli anni 70 in poi il paese all'avanguardia. Se posso permettermi questo tocco di nazionalismo, è forse uno dei pochissimi campi in cui la scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale come la più innovativa e la più all'avanguardia. È stata la prima a sperimentare appunto questo approccio inclusivo, per cui anziché segregare gli studenti con disabilità in classi speciali, classi, quelle che un tempo si chiamavano le classi differenziali, li ha inseriti appieno nel nostro sistema scolastico. Esaminando appunto gli ultimi anni e il percorso che è stato fatto, quali sono i nodi critici che avete individuato? Un automatismo nel sistema italiano per cui le famiglie che hanno appunto un ragazzo disabile chiedono una certificazione all'AS, questa certificazione di fatto determina il numero di ore di insegnamento di sostegno. Quindi, come dire, è un ente esterno alla scuola che fa la lettura del bisogno scolastico del ragazzo, non è la scuola stessa nella sua autonomia che dice a fronte di questo tipo di disabilità sarebbe opportuno magari introdurre nuove tecnologie, fare un tipo di formazione diversa, semplicemente ti assegno X ore di sostegno. È un sistema molto molto rigido che non differenzia di fatto i bisogni dei ragazzi. L'altro grande problema è la mobilità degli insegnanti di sostegno. Diciamo il 43%, quindi quasi il 50% degli allievi con disabilità cambia insegnante di sostegno una più volte all'anno. In casi in cui è fondamentale la continuità didattica, cioè il rapporto che si instaura fra il ragazzo con disabilità e l'insegnante, questa continuità viene frequentemente, un caso su due quasi, interrotta. Tra l'altro molti insegnanti di sostegno, questo è un altro dei problemi che abbiamo rilevato, dopo un investimento appunto in formazione ottengono forse più rapidamente degli altri il passaggio in ruolo, quindi a tempo determinato, ma dopo 5 anni di insegnamento di sostegno tendono poi in molti casi, più di un terzo dei casi, a rientrare nei ranghi fra gli insegnanti normali, quindi ci troviamo in una situazione per cui gli insegnanti in primo luogo, ma la collettività intera ha fatto un grosso investimento nel sostegno, quindi diciamo in una formazione, in una pedagogia, in una didattica particolare, nella capacità di aiutare ragazzi disabili, investimento che poi in un certo senso va sprecato dopo 5 anni perché l'insegnante di sostegno rientra nei ranghi diciamo degli insegnanti curriculari. Poi ci sono ovviamente altri problemi, l'elenco ahimè è abbastanza lungo. Un'altra cosa che notiamo è come in Italia l'aiuto al sostegno sia sostanzialmente confinato al mondo della scuola, ma cosa succede oltre la scuola e dopo la scuola è molto più oscuro. Noi siamo il paese che ha un tasso di occupazione, quindi un numero di occupati di disabili fra i più bassi tra i paesi avanzati. E oltre la scuola, dopo la scuola, subentra il ruolo del volontariato e poco altro, come ci racconta Don Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana. Questa difficoltà a tenere insieme il bel momento di inserimento scolastico con tutte le opportunità che questo dà a tutti gli altri momenti che sanno più di società, di cultura, di tempi liberi, di ricreazione, di appartenenza, di aggancio col proprio territorio, ecco, c'è una difficoltà a legare insieme due mondi che hanno bisogno di stare strettamente uniti tra loro, proprio perché il ragazzo, l'alunno, frequentando in modo positivo la scuola, trovi poi una continuità dentro i contesti sociali che caratterizzano il suo vissuto e quello dei suoi coetanei. Il volontariato, dentro questo grande aspetto, ha sempre assunto nel tempo una ottima, bella presenza, capace proprio di far vivere esperienze altre rispetto alla scuola, ma anche di tentare di agganciarle al mondo scolastico. Ma torniamo alla scuola, una scuola, come dicevamo, quella italiana, all'avanguardia nella sua legislazione, ma con molte zone d'ombra su cui intervenire. In che modo? Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L. La proposta prima è quella di creare a livello territoriale, provinciale o subprovinciale, dei nuovi centri di risorse per l'integrazione. Li abbiamo chiamati CRI, ahimè sembra la Croce Rossa, ma non la sono. Sono centri di risorse per l'integrazione, una nuova struttura dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, con un suo dirigente, con insegnanti e personale di alta specializzazione, che in una fase transitoria utilizzeranno anche gli attuali insegnanti di sostegno. Questo CRI dovrebbe definire e assegnare tutte le risorse finanziarie, professionali e tecnologiche alle singole scuole, cioè c'è un soggetto che svolge un servizio di orientamento e sportello unico per le famiglie e che svolge nei confronti delle scuole un'attività di consulenza e di formazione degli insegnanti che stanno nelle scuole. Quindi questa è una cosa nuova e originale, non è uno spunto inventato da noi, avviene già in Europa in vari paesi e lo proponiamo fortemente. La proposta numero 2 è l'evoluzione della figura degli insegnanti curricolari e degli insegnanti di sostegno. Tutti gli insegnanti dovrebbero quindi avere, tutti, non solo quelli di sostegno, una preparazione di base in pedagogia didattica speciale, perché questo deve essere un patrimonio della scuola di oggi, della scuola di tutti. Non ci possono essere da un lato gli insegnanti che occupano dei disabili e dall'altro gli insegnanti normali. Tutti devono essere corresponsabilizzati ad avere una preparazione di base, il che vuol dire che nei progetti di formazione degli insegnanti la pedagogia didattica speciale deve essere condivisa e studiata da tutti. La seconda idea di questa proposta che riguarda l'evoluzione degli insegnanti di sostegno è che col tempo, e naturalmente in una fase di transizione che sarà anche lunga, noi raccomandiamo il passaggio graduale degli insegnanti di sostegno nell'organico normale delle scuole. Quindi in definitiva gli insegnanti di sostegno da un lato entreranno progressivamente nell'organico, mentre si creerà una consistente e congruo numero di insegnanti specializzati o personale specializzato che sarà dipendente da questi CRI territoriali e provinciali. La terza proposta è l'abolizione degli effetti scolastici della certificazione sanitaria che avviene oggi. Oggi sulla base della certificazione sanitaria fatta dalle ASL derivano tutta una serie di conseguenze. È in sostanza la scuola che con un piano educativo individualizzato deve operare autonomamente in concertazione con i nuovi CRI e non più come conseguenza di una decisione presa dalle ASL. Quindi in definitiva c'è un passaggio da una visione molto medicale a una visione più da maggiore importanza alla pedagogia speciale. La quarta proposta è l'istituzione di forme di valutazione della qualità di tutto questo processo di integrazione. Oggi è gravemente carente, nessuno guarda i risultati, nessuno li misura e non ci sono ritorni di efficacia di tutto l'investimento che si fa. Quindi questo potrà essere fatto attraverso un patto istituzionalizzato tra questi nuovi CRI, le singole scuole e le famiglie. era la seconda edizione di Italia in Controluce. Cercateci su Facebook, Twitter. Torniamo lunedì alle 6.30, naturalmente su Radio 24.